Avrete notato certamente come la settimana scorsa, cedendo alla tentazione, che non è sempre innocua, di vantare l'ampiezza delle mie conoscenze linguistiche, altro non sono riuscito a fare che rivelare la profondità della mia ignoranza. Parlando della campagna pubblicitaria di quella rivista femminile che ha creduto di fare chissà quale complimento alle sue vettrici affermando che non di donne qualsiasi ma di uomini o uomine, non so, si tratta, avevo fatto notare che in nessuna lingua a me nota, direttamente o indirettamente, la parola per donna risulta costruita sulla stessa radice di quella per uomo e viceversa, traendone la confortante assicurazione che il linguaggio potesse essere considerato più ragionevole dell'ideologia, nel senso che, impiegando per definire le due metà del genere umano due parole ben diverse, si afferma, oltre che l'ovvia diversità dei soggetti a cui i termini si riferiscono, la loro reciproca autonomia sul piano dei valori. Un'autonomia che sarebbe surrettiziamente negata se si considerasse uno dei due termini derivato dall'altro e quindi in un certo senso inferiore. Beh, in pratica non avevo ancora finito di parlare che già fioccavano le telefonate degli ascoltatori che mi facevano notare come almeno una lingua che usa per indicare l'uomo e la donna la stessa radice esiste e dovrebbe essere ben nota a chiunque s'azzardi a fare in pubblico generalizzazioni di quel tipo. È l'ebraico, sì. L'ebraico, come tutti tutto sommato potrebbero dedurre da quel brano della Genesi 2.23 in cui il padre Adamo, subito dopo la creazione di Eva, decide che la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, frase che in italiano o in altre lingue europee non ha senso alcuno, ma ne acquista uno molto preciso se si sa che nell'originale uomo si dice ish e donna, guarda un po', isha. I due termini, mi ha assicurato un ascoltatore particolarmente colto, non sono esclusivi della Genesi, si sono conservati nell'ebraico successivo fino a oggi. E non vi nascondo che ci sono restato un po' male, perché avrei potuto rispondere che la cosa in fondo confermava quello che avevo appena detto, perché solo quell'uso linguistico lì può giustificare un racconto come quello della Bibbia, in cui la derivazione e quindi l'inferiorità di uno dei due soggetti rispetto all'altro è affermata che più chiaramente non si potrebbe. Ma mi hanno anche spiegato che no, quel passo della Genesi, al contrario, è uno dei più controversi dell'intera scrittura, tanto per la tradizione talmudica quanto per la filologia biblica, per cui probabilmente ho fatto meglio a tacere. E poi che vergogna. Parlare di lingue, sdottorare di seconda mano via etere di turco, cinese e giapponese e inciampare sull'ebraico. È vero che avevo ammesso a priori la possibilità che qualche lingua a me ignota si comportasse diversamente da quelle che avevo citato, ma sono affermazioni che si fanno per mettere le mani avanti, non ingannano nessuno. E l'idea che non sapere l'ebraico sia più grave che ignorare, diciamo, il tunguso o il maori, per irrazionale che sia, fa parte della nostra cultura e non si può mettere da parte tanto facilmente. Il fatto è che appunto nella storia della nostra cultura l'ebraico ha un ruolo affatto speciale, lo sappiamo tutti. Per la moderna linguistica storica è una componente del gruppo semitico occidentale, e vabbè. Ma in passato la sua condizione era tutta diversa, quasi tutti gli studiosi, con qualche eccezione, come quella di Dante, se ricordate il canto 26esimo del Paradiso, quasi tutti gli studiosi hanno concordato per secoli sul fatto che fosse la lingua parlata nel giardino dell'Eden, il che ne faceva automaticamente la lingua primigenia, di origine se non proprio divina quasi, e molto, molto vicina allo status di quella lingua perfetta di cui tutte le altre sono imperfette derivazioni che i linguisti cercano indefessamente da secoli e che continuano a cercare naturalmente sotto forma di grammatica generativa, di struttura profonda, di cose del genere. D'altronde, che l'ebraico sia la lingua primigenia è stato affermato anche in via sperimentale, Le cronache ricordano come il re Giacomo IV di Scozia regnò dal 1488 al 1513, praticamente alle soglie dell'età moderna, abbia ripetuto con particolare rigore quel vecchio esperimento che Erodoto aveva attribuito al faraone psammetico, no? Disponendo che due bambini fossero allevati in totale isolamento senza che fosse insegnata loro letteralmente una parola, e abbia scoperto che dopo un po' i due disgraziati si mettevano a conversare in buon ebraico. Ai tempi di psammetico veramente le creature chiedevano da mangiare in lingua frigia, ma chissà che cosa aveva in mente quel faraone, di cervelli balzani ce ne sono sempre stati. In fondo nel XVII secolo, sì, c'è stato persino un erudito svedese, un tale Andreas Kenke, secondo il quale nell'Eden Dio parlava svedese, Adamo danese e il serpente francese, per cui capirete, no? Lasciamo perdere gli eruditi svedesi e vedremo che la cultura occidentale ha sempre riconosciuto all'ebraico quest'alta funzione, ma stranamente non ne ha mai tratto la conclusione di doverne fare una delle sue lingue, e non ne ha inserito l'apprendimento nei curricula di studio, non ha mai posto la condizione che i dotti per essere considerati tali la dominassero. Mentre chiunque, per poter aspirare a un ruolo sociale appena appena distinto, doveva masticare un po' di greco e di latino, a conoscere l'ebraico, fuori dal ghetto, naturalmente, sono sempre stati solo gli specialisti. Con la parziale eccezione di pochi anticonformisti colti, non so, leopardi, o gli ascoltatori di Radio Popolare che mi hanno telefonato. E questo non solo in Italia, nei paesi cattolici, in cui la lettura della Bibbia non è mai stata incoraggiata più di tanto, ma anche nel resto d'Europa, dove nulla osta che si lega quanto più della Bibbia si riesce a leggere, te la mettano anche nelle stanze degli alberghi, a patto naturalmente che lo si faccia in traduzione. Meglio se in una traduzione autorizzata come quella che Giacomo I, che nonostante un numero d'ordine era pronipote di quel Giacomo IV di prima, aveva fatto predisporre per i suoi fedeli sudditi di lingua inglese. E che capirete? Avere sotto mano una lingua perfetta alle cui strutture demandare la soluzione di interessanti problemini socioculturali, per esempio la posizione reciproca dell'uomo e della donna, è già molto comodo per chi detenga il potere. Se poi questa lingua perfetta non la conosce nessuno, il che garantisce che nessuno si metta a discutere le tue interpretazioni preferite senza debita autorizzazione, beh, allora altro che lingua perfetta, è un dono della provvidenza, è una lingua divina, appunto.